5 anni che non la leggeva la lettera. A niente era servita la vergogna di doverla scrivere. La banca aveva risposto di no. E mentre lui si trovava condannato a vendere non solo l'ultimo pezzo di terra, ma magari la casa in cui era nato e in cui era campata fino all'ultimo sua moglie, e si era scetto dentro una specie di catoglio di 2 camere e aveva dovuto patire la pena di veder partire lontano il suo unico figlio, mentre lui, insomma, si riduceva povero e pazzo. Suo genero, quello per cui si era rovanato, Emanuele Barbabianca, continuava ad andare in giro in carrozze e cavalli. Il sospetto che una sera Don Cicciolo Cascio gli aveva seminato, che cioè se fosse trattato di un tranello concordato tra padre e figlio per consumarlo una volta e per sempre, aveva preso il colore della certezza assoluta e ora, dopo 7 anni di gibolo, di miseria, di dolore, forse era venuto il momento di aprirla, quella finestra. Trovando una forza che credeva perduta per sempre, d'un salto si parò davanti alle persiane, le spalancò contemporaneamente tanto da farle sbattere con violenza contro il muro. E mentre il sole entrava, manco ci fece caso e stava piangendo. Gli Attard, i Buhajar, i Camelleri, i Cassar, gli Amel, gli Oades, i Perce, gli Sciaino, gli Sciascia, gli XR, arabi o maltese che fossero, piedi incretati, attaccati all'osso, che sparagnavano magari l'ole ai morti, gli Ayala, i Congeras, i Fernandez, i Lopez, i Martinez, gli Anasco, i Villarroel, i Villa Sevaglios, spagnolo tutto scocca e maniglia, ma sostanza niente, sembra con naso arricciato, come se sentissero feto, i Gotel, gli Oefer, i Jacobs mangiapatate, scecchi tedeschi col parocchio capace di sdorruparsi dentro un fosso oppure di non spostarsi di un centimetro sulla strada segnata, teste di chiumo. E poi la fila che non finiva mai dei paesani carrose, Brancate Buttitta, Cacciatore Consolo, D'Arrigo e Stefane, Farinelle e Fiore, Galle Giudici, Sgroioppolo, Lanza e Longo, Mazzaglia e Mormino, Napoli e Nicosia, Padellare e Pezzuto, Ronzasvalle e Russello, Savarese e Sciascia, Terranova e Torriso, Uccello e Uliano, Velarde e Verduzzo, Zagarrio e Zinna, tutto il paese insomma. Perdute mani, piede, panza, petto, ma fatto solo occhio.